Ciao, io sono Laura Voltolina e questa podletter è quella fregatura della felicità. Ti dico subito che in fondo alla newsletter c'è uno sconto in regalo riservato alle persone iscritte. Scade il 18 ottobre e ha un po' a che fare con la felicità. Ci hanno raccontato che la felicità è una conquista personale. Devi migliorarti, accumulare successi, bruciare le tappe. E noi, diligenti, abbiamo corso che nemmeno alle Olimpiadi, verso obiettivi che non ci hanno mai nutriti. E, sorpresa, non sappiamo più cosa ci orienta, cosa ci serve, cosa ci fa bene. È come essere su Google Maps senza GPS. Vedi la mappa, ma il puntino blu che dovrebbe indicare dove sei tu è sparito. La destinazione sarebbe la felicità, ma sulla mappa non vediamo nemmeno quella perché ci hanno convinti che è un traguardo individuale, mentre invece è un ecosistema di relazioni e connessioni. Non possiamo fiorire da soli, perché la nostra vera natura, biologica, corporea, evolutiva, dice che siamo reti dentro reti, interconnesse con tutto. E quando il mondo si lacera, anche noi ci laceriamo. Leggi le notizie e il sistema nervoso va in affanno. Ti senti in colpa per la tua stanchezza. Ti accorgi che stai facendo tutto bene, lavoro, relazioni, pratiche di self-care, ma sei insoddisfatto. E allora cosa ci dicono? Di proteggerci, di pensare a noi, di stare nella nostra bolla. Ma anche questo è contrario alla nostra natura umana. La risposta, invece, è mettere radici più profonde, più consapevoli, più interconnesse. È restare aperti e saldi. Non voglio pratiche che insegnino a stare in pace in un mondo ingiusto. Non voglio meditazioni che anestetizzino, che facciano galleggiare sopra il dolore come se non ci riguardasse. Io voglio strumenti che aiutino a restare radicati, a sentire senza esserne travolti. Voglio pratiche che aiutino a vedere con chiarezza, agire con saggezza, tornare al centro quando intorno è caos. Il nostro compito più profondo non ha niente a che vedere con la produttività, è tenere vivo lo spirito umano. E questo è un atto collettivo. Perché quando tu ritrovi le tue radici, non cambi solo la tua di vita, trasformi tutto. La tua presenza radica anche chi ti sta intorno, perché siamo interconnessi. La tua chiarezza diventa un faro per le altre persone. Questo è l'antidoto, radicarsi, perché essere radicato nel tuo sé autentico significa essere radicato anche nel tessuto collettivo dell'umanità. Per questo ho creato due percorsi conseguenziali, perché tante persone stanno cercando la forza di restare aperte e presenti. E per chi segue entrambi i percorsi, c'è uno sconto pensato apposta, valido fino al 18 ottobre. Il primo percorso è la bussola interiore, yoga on demand per ritrovare la direzione autentica. Sono 6 incontri di 40 minuti ciascuno che ti guidano progressivamente verso la parte più autentica di te, più una sessione individuale anche al telefono con me, dedicata precisamente a te e alle tue domande e condivisioni. La bussola interiore è accessibile, anche se non hai mai fatto yoga ti mette in grado di seguire tutto con naturalezza. È flessibile perché scegli tu il tuo ritmo, sono 6 incontri e hai 30 giorni per seguirli, per ripetere le parti più interessanti e andare più in profondità. È concreta, impari cosa ti calma e cosa ti energizza da usare quando serve. È utile perché la tua capacità di concentrazione migliora sensibilmente fra il primo modulo e l'ultimo. Ed è divertente, perché sorridendo si impara meglio. È disponibile on demand per 30 giorni da quando ricevi il link. Puoi seguire quando vuoi e rivedere quando ti serve. Se vuoi lo sconto combo, attivalo entro il 18 ottobre. Il secondo percorso che sta all'interno di questo sconto combo è yoga e mitologia e l'arte di trovare la via del caos. 4 incontri in diretta per imparare a fidarti della tua intuizione. Le dirette saranno il martedì sera dal 18 novembre dalle 20 alle 21 e le registrazioni saranno a disposizione per una settimana. Questo percorso ti aiuterà a riconoscere i pattern inconsci del tuo cammino, a restare presente in situazioni in cui in passato il caos ti travolgeva e ad agire anziché reagire in linea con ciò in linea con ciò in cui credi davvero. Perché i due percorsi insieme? Puoi scegliere uno di questi percorsi e seguire quello se senti che ti attira di più. Io oggi li propongo insieme perché quando li fai entrambi, smetti di vagare in cerca di chi ti dica cosa fare e agisci nel mondo con autenticità. Lo sconto combo scade il 18 ottobre. Chi si iscrive a entrambi i percorsi risparmia. Anziché 130 euro in totale per 6 incontri on demand più 4 dirette con registrazioni, ne paghi 105 entro il 18 ottobre e solo per persone iscritte alla newsletter. La tua bussola interiore funziona benissimo, è ora di riprenderla in mano, perché quando tu guarisci, l'umanità guarisce. Iniziamo? Un abbraccio, Laura.